Lo zio George era tornato dal servizio militare. Portava la giacca blu dell'esercito coi bottoni di ottone e aveva due occhi arditi e allegri. Era alto, grande e grosso e camminava dondolandosi con aria spavalda. Laura lo fissò per tutta la durata della cena perché aveva sentito il babbo dire alla mamma che lo zio era uno scatenato. Giorgio è uno scatenato da quando è tornato a casa dalla guerra, aveva detto il babbo scuotendo la testa come se ne fosse dispiaciuto. Ma non ci fosse rimedio. All'età di 14 anni lo zio Giorgio era scappato di casa per andare a fare il tamburino nell'esercito. Laura non aveva mai visto uno scatenato. Non sapeva se lo zio Giorgio le faceva paura oppure no. Terminato di cenare, lo zio Giorgio uscì e suonò a lungo e forte la sua tromba militare. Fece un bel suono vibrante che si allontanò fino in fondo ai grandi boschi. I boschi erano bui e silenziosi e gli alberi stavano immobili come se ascoltassero. Poi, da molto lontano, il suono ritornò sottile e limpido e fu come se alla grande tromba avesse risposto un'altra tromba più piccina. Senti, disse lo zio Giorgio, non è bello? Laura lo guardò, ma senza dire niente, e quando lo zio Giorgio smise di suonare la tromba, scappò in casa. La mamma e la nonna sparecchiarono e rigovernarono, poi spazzarono il caminetto, mentre zia Docia e zia Ryubi si facevano belle nella loro stanza. Laura sedette sul loro letto e le guardò pettinarsi e spartirsi i lunghi capelli con cura. Li spartirono dalla fronte alla base del collo e poi orizzontalmente da un orecchio all'altro. Dei capelli posteriori fecero lunghe trecce che poi composero con cura in grossi nodi. Si erano lavate la faccia e le mani per bene col sapone nel catino posato sulla panca in cucina. Si erano servite del sapone che vendevano al magazzino, non di quello viscido, molle, marrone scuro scuro che la nonna faceva e poi conservava in un grande recipiente per l'uso quotidiano. Le zie si dilungarono con le loro frangette, sollevando il lume e guardandosi la pettinatura al piccolo specchio che pendeva alla parete di legno. Se le pettinarono tanto su entrambi i lati della scriminatura che alla fine splendevano come seta al chiarore del lume. Splendevano anche i piccoli rigonfiamenti ai due lati, le cui estremità erano state composte e ben ritorte sotto la grande crocchia sulla nuca. Dopo si misero le loro magnifiche calze bianche che avevano lavorato ai ferri con ottimo filo di cotone, facendovi dei graziosissimi disegnini, e infine calzarono e abbottonarono le loro scarpe migliori. Coi busti si aiutarono a vicenda. Zia Doccia tirò più forte che poté le stringhe del busto di zia Ryubi e poi si aggrappò ai piedi del letto mentre zia Ryubi tirava le sue. Tira, Ryubi, tira! Diceva quasi strozzata zia Doccia. Tira più forte! E allora zia Ryubi puntava i piedi e tirava più forte. Zia Doccia seguitava a misurarsi la vita con le mani e alla fine disse sfiatata: Credo che meglio di così non si possa fare. Poi aggiunse: Caroline dice che Charles riusciva a cingerle la vita con le mani quando si sono sposati. Caroline era la mamma di Laura e quando Laura sentì queste parole ne fu molto fiera. Poi zia Ruby e zia Docia si misero le sottovesti di flanella, le sottovesti solite e infine le sottovesti bianche, inamidate, coi pizzi fatti all'uncinetto, tutto intorno agli orli. E dopo si misero i loro bei vestiti. Quello di zia Doce era di uno stampato a germogli blu scuro, tutto tempestato di boccioli di fiori rossi e foglie verdi. Il davanti era abbottonato con dei bottoni neri che sembravano a tal punto delle bacche di mirtillo che a Laura veniva voglia di assaggiarli. L'abito di zia Ryubi era di un color vino, tutto coperto di disegni di un rosso più tenue. Si abbottonava con dei bottoncini dorati, ognuno dei quali aveva inciso sopra un piccolo castello e un albero. Il grazioso colletto bianco di zia Docia era assicurato davanti con una grande spilla adorna di un cameo rotondo che rappresentava una testa di donna. Zia Ryubi, invece, assicurò il suo colletto con una rosa rossa di cerlacca. L'aveva fatta con le sue mani, costruendola sulla cruna rotta di un lungo ago da lana, che non sarebbe quindi più potuto servire. Erano graziosissime quando passarono leggere sul pavimento con le loro grandi gonne tonde e ampie. Dalla vita stretta in su, il loro busto saliva tornito e snello. Le loro guance erano rosse e i loro occhi luminosi sotto i capelli lisci e lucenti. Anche la mamma era bellissima nel suo abito verde scuro, tutto cosparso di foglioline che parevano fragolette. La gonna era a base pieghettate e adorna di nastri annodati verde scuro. Il colletto era chiuso da una spilla d'oro piatta, larga quanto le due dita più grandi di Laura, tutta incisa e smerlata alle estremità. La mamma aveva un aspetto da gran signora, così elegante che Laura aveva paura a toccarla. Gli invitati cominciarono ad arrivare. Erano venuti a piedi, traversando il bosco pieno di neve, reggendo le lanterne oppure con le slitte e i carri. Era un continuo tintinnare di sonagliere delle slitte. La grande stanza si riempì di alti stivali e di ondeggianti gonne, mentre i neonati giacevano disposti a file sul letto della nonna. Zio James e zia Libby erano venuti con la loro bambina, che si chiamava anche lei Laura Ingalls. Le due Laura si affacciarono sul letto e guardarono i neonati, e allora l'altra Laura disse che la sua sorellina piccola era molto più bella della piccola Carrie. «Non è vero», protestò Laura, «Carrie è la più bella bambina di tutto il mondo». «No, non lo è», replicò l'altra Laura. «E invece sì, e invece no». Arrivò di corsa la mamma nel suo elegante abito e disse severa: Laura! E così né l'una né l'altra Laura dissero più una parola. Lo zio Giorgio stava suonando la tromba. Nella grande sala si spandeva un suono forte e vibrante, e allora lui fece il burlone, si mise a ballare, sempre suonando la tromba. Il papà tirò fuori dalla custodia il violino e cominciò a suonare, e tutte le coppie si misero in ordine per la quadriglia e cominciarono a danzare quando il babbo ne annunciò le figure. Grande a destra e a sinistra, gridò il babbo, e tutte le gonne si misero a turbinare e tutti gli stivali si misero a battere. I ballerini che formavano dei cerchi giravano tutti intorno, tutte le gonne andavano da una parte e tutti gli stivali dall'altra, e le mani si afferravano o si lasciavano in alto, in alto. Fate ruotare le dame, ordinava il papà, e ogni cavaliere si inchini alla dama di sinistra. E tutti facevano come lui diceva. Laura guardava ondeggiare la gonna della mamma. Il suo busto snello si inchinava, la sua testa nera accennava un saluto, pensò che la sua mamma era la più bella ballerina del mondo. Il violino suonava. O voi ragazze di Buffalo, non volete uscire stasera? Non volete proprio uscire stasera a danzare al chiaro di luna? I piccoli cerchi e i cerchi grandi giravano e giravano in tondo, e le gonne ondeggiavano. E gli stivaloni battevano, e i ballerini si facevano l'inchino, si separavano, tornavano vicini e si rifacevano l'inchino. Tutta sola, la nonna in cucina rimestava lo sciroppo che bolliva nel gran pentolone di rame. Lo mescolava al ritmo della musica. Accanto alla porta posteriore c'era un secchio di neve pulita, e ogni tanto la nonna prendeva un cucchiaio dello sciroppo della pentola e lo versava su un poco di neve che aveva messo su un piattino. Laura tornò a guardare i ballerini. Papà ora stava suonando la lavandaia irlandese e ordinava: Attente signore, attente bene, battete più forte sul calcagno e sulla punta. Laura non riusciva a tenere fermi i piedi. Lo zio Giorgio la guardò e rise, poi la prese per una mano e fece con lei un balletto nell'angolo. A lei piacque moltissimo lo zio Giorgio. Ci fu un gran ridere in prossimità dell'uscio della cucina, stavano trascinando fuori la nonna. Anche lei aveva un bel vestito. Era di un blu scuro con un disegno di foglie di colore autunnale. Aveva le gote arrossate dal ridere e scuoteva la testa. Stringeva ancora in mano il mestolo di legno. Non posso, non posso abbandonare lo sciroppo, diceva. Ma il papà attaccò Viaggiatore del Kansas, e tutti si misero a battere le mani a tempo di musica. Allora la nonna fece un inchino rivolto a tutti e danzò qualche passo tutta sola. Nel danzare la sua grazia non era certamente inferiore a quella degli altri, e infatti i battimani superarono quasi il suono del violino. Di colpo lo zio George sembrò calare a volo di falco in mezzo alla sala, e fatto un profondo inchino alla nonna si mise a ballare la giga. La nonna lanciò il mestolo a qualcuno, si posò le mani sui fianchi, si mise di fronte allo zio Giorgio e cominciò a ballare con lui. Era Laura batteva le mani a tempo di musica insieme a tutti gli altri, il violino suonava come non aveva mai fatto prima. Gli occhi della nonna erano pieni di brio, le sue guance erano arrossate e sotto le gonne batteva i tacchi con la stessa velocità con la quale lo zio Giorgio batteva i suoi stivaloni. L'entusiasmo era generale. Lo zio Giorgio seguitava a ballare la giga e la nonna seguitava a stargli di fronte e a ballare la giga anche lei. Il violino non smise di suonare, lo zio Giorgio cominciò a respirare rumorosamente e si asciugò il sudore sulla fronte. Gli occhi della nonna ammiccarono scintillanti. «Non ce la fai a batterla, George!» gridò qualcuno. Lo zio Giorgio si mise a ballare più in fretta, ballò 2 volte più in fretta di quanto non avesse mai fatto e la nonna fece altrettanto e tutti acclamarono di nuovo. Tutte le donne ridevano, battevano le mani. E tutti gli uomini rivolgevano parole mordaci allo zio Giorgio. Lo zio Giorgio non se ne curava, però non gli bastò il fiato per riuscire anche a ridere. Doveva ballare la giga. Gli occhi azzurri di papà ammiccavano e scintillavano. Ora si era alzato e nel guardare Giorgio e la nonna faceva correre e danzare l'archetto sulle corde del violino. Laura saltava su e giù, lanciò un grido e batté forte le mani e la nonna seguitò a danzare la giga, mani puntate sui fianchi e faccia ben rivolta in alto, sorrideva. George seguitava a ballare, ma i suoi stivali non colpivano più il pavimento con la forza di prima, mentre i tacchetti della nonna continuavano a ticchettare allegri, pieni di vivacità. Dalla fronte di George gocciolò una perla di sudore e poi gli brillò sulla guancia. E all'improvviso lanciò in alto le braccia e disse ansimando: «Ah, mi do per vinto!» E smise di ballare la giga. Ci fu un gran rumoreggiare, un gran ridere, un gran battere i piedi per festeggiare e acclamare la nonna. La nonna danzò la giga ancora per qualche minuto e poi smise. Rideva col fiato corto. I suoi occhi scintillavano proprio come quelli del babbo quando rideva. Rideva anche Giorgio e intanto si asciugava la fronte con un avambraccio. Di colpo la nonna smise di ridere, girò sui tacchi e corse più in fretta che poté verso la cucina. Il violino aveva smesso di suonare, le donne parlavano tutte insieme, gli uomini lanciavano frizzi a Giorgio, ma quando si vide la faccia che aveva fatto la nonna, tutti tacquero per un buon minuto. Poi la nonna si presentò sulla soglia tra la cucina e la grande sala e disse: «Lo sciroppo si sta addensando! Venite a servirvi!» Allora soltanto tutti ricominciarono a parlare e a ridere. Corsero in cucina a prendersi il piatto e poi andarono fuori per riempirselo di neve. La porta della cucina era spalancata ed entrava l'aria fredda. Le stelle lucevano come ghiaccioli nel cielo e l'aria punse Laura alle gote e al naso. Il suo respiro era come un fumo. Lei, l'altra Laura e tutti gli altri bambini raccolsero col piatto la neve pulita, poi rientrarono nella cucina gremita. La nonna stava accanto al pentolone di rame e col suo grande mestolo di legno versava lo sciroppo bollente sui piatti colmi di neve. Lo sciroppo si raffreddava in un morbido caramello e non appena raffreddato veniva mangiato. Se ne poteva mangiare quanto si voleva perché lo zucchero d'acero non ha mai fatto male a nessuno. Nel pentolone c'era sciroppo in quantità e in quantità era la neve all'esterno. Non appena se ne terminava un piatto, si tornava a riempirselo di neve e la nonna versava dell'altro sciroppo. Quando ci si fu saziati del soffice caramello da non poterne mandare giù dell'altro, allora si fece onore alla lunga tavola carica di torte, di crostate di frutta, di biscotti e di pasticcini. C'era anche pane fatto in casa, maiale bollito freddo e sottaceti. Com'erano piccanti. Tutti mangiarono fino a non poterne più e poi si ricominciò a ballare. Ma la nonna restò ancora di guardia allo sciroppo che bolliva nella pentola. Ogni tanto ne versava un poco su un piattino e lo rimestava piano piano, poi scuoteva la testa e tornava a versare lo sciroppo nella pentola. Nella sala attigua, intanto, c'erano gran rumore, allegria e la musica del violino e lo scalpiccio del ballo. Finalmente, mentre la nonna lo rimestava, lo sciroppo si trasformò in granelli come quelli della sabbia. E allora la nonna chiamò: «Presto, ragazze, si sta facendo granuloso!» Zia Ryubi, zia Docia e la mamma abbandonarono le danze e arrivarono di corsa. Tirarono fuori piatti di metallo di varie dimensioni e per quanto la nonna li colmasse in fretta di sciroppo, loro gliene presentavano continuamente degli altri. Misero quindi da una parte quelli già pieni, perché lo sciroppo si raffreddasse e diventasse zucchero d'acero. Poi la nonna disse: "Ora portate quelli piccoli per i bambini." C'era un sottocoppa, o se non altro una tazza sbocconcellata o un piattino per ognuno dei bambini. Questi ultimi guardavano tutti ansiosamente la nonna che distribuiva lo sciroppo col mestolo. Chissà se ce ne sarebbe stato abbastanza per tutti. Se no, a qualcuno sarebbe toccato dimostrarsi un bambino educato e poco egoista. Lo sciroppo bastò giusto per tutti. Le ultime mestolate, raccolte grattando il fondo della pentola, colmarono gli ultimi sottocoppa. Nessuno restò a bocca asciutta. Intanto la musica e le danze continuavano. Laura e l'altra Laura si aggiravano nella sala e guardavano i ballerini. Poi li guardarono sedute sul pavimento in un angolo. La danza era tanto bella e la musica così allegra che Laura sapeva di non potersene mai saziare. Tutte le belle gonne passavano ondeggiando, gli stivali battevano e il violino continuava a suonare, tutto allegro e contento. Poi Laura si svegliò e si trovò sdraiata di traverso in fondo al letto della nonna. Era mattina. La mamma, la nonna e la piccola Carrie erano nel letto. Il babbo e il nonno dormivano avvolti nelle coperte sul pavimento davanti al caminetto. Mary non si vedeva da nessuna parte perché dormiva nel letto con le zie. Ben presto tutti si alzarono. Per colazione ci furono frittelle e sciroppo d'acero e poi il babbo portò davanti alla porta la slitta con i cavalli. Mentre il babbo aiutava la mamma e la piccola Carrie a salire, il nonno prese in braccio Mary e lo zio George prese in braccio Laura e le due bambine furono posate sulla paglia del fondo. Il babbo rimboccò loro intorno i mantelli e gli scialli, poi il nonno, la nonna e lo zio George restarono lì a gridare: "Arrivederci! Arrivederci!" Mentre la slitta si muoveva verso l'interno dei grandi boschi, diretta a casa. Il sole era caldo e nel trottare i cavalli sollevavano con gli zoccoli pezzi di neve infangata. Dietro la slitta, Laura vedeva le orme dei cavalli e ognuna di quelle orme era arrivata sotto il sottile strato di neve fino al fango. "Prima di notte," disse il babbo, "la neve da zucchero sarà completamente scomparsa."